Oi, la mia povera testa! Ehi, ma dove sono? L'ultima cosa che mi ricordo è che stavamo registrando il jingle di Natale con Francesco e Alessandro. Eppure, questo non è lo studio! Ma dove diavolo sono finito? Giorgio, finalmente ti sei svegliato! Eliseo, ma che ci fai in Italia? Tu abiti in Svizzera! Ti rigiro la domanda. Giorgio, tu che abiti in Italia, che ci fai in Svizzera? E che ci faccio in Svizzera? Boh! Sarò venuto a comprarmi un orologio o a mangiare la cioccolata? Anzi, a fare affari con qualche banca! Per le banche mi sa di no! Da quando hai fatto i soldi? E poi mica sei tanto furbo da evadere il fisco senza fartene accorgere? Nascondere i soldi in Svizzera riesce a pochi eletti. E comunque lo Stato non si inganna. Quello sa sempre praticamente ogni cosa. Magari chiude un occhio, ma di sorpresa è difficile coglierlo. Infatti tanti furbetti li stangano alla frontiera, dove li aspettano già preparati. Sì, vabbè, e com'è che ci sono arrivato in Svizzera? Ti hanno portato le poste svizzere, in furgone, in una cassa. C'era una bolla di accompagnamento. Te la leggo. Cari Eliseo e Maddalena, vi spediamo Giorgio per un po'. Tenetevelo fino a dopo le feste, così almeno noi respiriamo e ci godiamo le vacanze. Firmato Francesco Alessandro. Brutte carogne, adesso ricordo. Mi hanno dato una mazzata in testa e... E allora, puntata numero 1 di Grandi Condottieri in Missione Svizzera. Un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Grandi Condottieri, Missione Svizzera. E come lo facciamo questo programma senza un ospite degno di questo nome? Guarda, che l'ospite ce l'abbiamo! È vero, eccolo che arriva. Ma chi è? Quella donnina con quel gonnone di flanella e quel cappello a bombetta pieno di nastri. E che è? La fioraia di un musical inglese. Silenzio, screanzato! Oi, che ceffone! Così impari a rivolgerti con educazione alle signore. Altro che signora, mi ha dato una sberla da scaricatore di porto. Per forza, sono cresciuta a Liverpool. Ma insomma, cialtrone, mi presenti o no? E io mica lo so chi è lei! Se non fossi una... Se non fossi una signora ti prenderei a calci nel sedere! Mi presento da sola, sono Lucy Walker! A cazzotto direi che è un nome poco svizzero! E mai ho sentito di un famoso condottiero o condottiera che portasse questo nome! Dunque, che ci fa una signora borghese in un programma che parla di condottieri? E soprattutto, che ci fa un inglese in una puntata dedicata alla Svizzera? A dire il vero, Lucy Walker era di origini canadesi e c'entra moltissimo con i grandi condottieri e la Svizzera! Sono stata la prima donna a scalare il monte, che in tedesco si chiama Matterhorn. Boh, un'altra di quelle montagne da sciroccati New Age, chissà dove in Tibet. Giorgio, guarda che il Matterhorn sta tra la Svizzera e l'Italia. In francese è Le Cervin. Oh, prima in tedesco e poi in francese. Ma che c'entra con una canadese che abitava a Liverpool? Il Cervino, come lo chiamiamo in Italia, è per una parte in Valle d'Aosta e per l'altra nel cantone del Vallese in Svizzera. In Val d'Aosta si parla essenzialmente francese e nel Vallese tedesco. Per questo gli inglesi utilizzano il nome germanico mentre gli italiani quello franco-latino. Mi quadra, horn in germanico significa corno e il cervo dal nome latino c'ha le corna. E bravo Somaro, il nome tedesco significa picco di Zermatt. Zermatt è una famosa località sciistica svizzera che sta ai piedi della montagna. Il nome francese è una corruzione di Mons Silvanus, da Silva che significa foresta. E poi con il tempo è diventato Selven Cervin. Altri però dicono che la montagna si è intitolata Servio Galba, che era un ufficiale di Cesare durante la guerra in Gallia e che aprì e rese sicuro il passo del Cervino. Chi? Quel Cesare che morì pugnalato in senato da quel brutto di suo figlio. Servio Galba, nome completo Servio Sulplicio Galba, fu uno di coloro che insieme a Bruto pugnalò Cesare e per questo condannato a morte. Suo nipote, comunque, fu l'imperatore romano noto col suo solo cognome Galba. Galba era del partito di Cesare. Svetonio però racconta che Cesare ebbe una relazione amorosa con la moglie di Galba. Forse è anche per questo che pugnalò Cesare. E siccome era un cornuto, gli hanno intitolato una montagna che si chiama Corno e Cervo. Torna, direi. Ma insomma, signora Walker, ci spiega che ci fa lei tra i condottieri svizzeri? A me sembra una donnetta inglese che prende il tè tutto il giorno in una stanza col pianoforte verticale, piena di pizzi, tappezzeria a fiori e l'immancabile moquette, che fa pandan con quella del cesso, sia chiaro. Oi oi oi oi oi, che lacca nel muso! Così impari a dire mare dello stile vittoriano! Per carità, la moquette in bagno è il non plus ultra dell'igiene. È comodissima da pulire. Dio salvi la regina, la salvi dai batteri. Guarda che te ne do un altro, Insomma, un giorno il dottore mi disse che per curare un principio dei reumatismi, la cura più adatta per una ventenne come me era di fare passeggiate. Mio padre e mio fratello, che erano soci del club alpino, presero la faccenda sul serio. Da allora ho scalato un gran numero di montagne, quasi tutte in Svizzera, spesso essendo la prima donna a farlo. Facile, Con le bombole d'ossigeno, le tute in carbonio e un elicottero pronto all'emergenza. Guarda che il Cervino l'ho scalato più di un secolo fa. Questi aggeggi moderni non c'erano e le donne non portavano i pantaloni. Sono salita fino in cima con questa stessa gonna bianca che mi vedi portare oggi e stando pure attenta a non sporcarla, come si conveniva a una gentildonna vittoriana. Questa è solo l'impresa più famosa della signora Walker. Nel corso della sua vita partecipò a quasi 100 spedizioni alpinistiche, spesso guidate da lei, come sul Cervino. Fu la presidentessa del club alpino femminile di Londra, che ebbe come presidentessa onoraria perfino la nostra regina Margherita. Quella della pizza, per intenderci. Più che la pizza, a me adesso andrebbe qualcosa di dolce, tipo del cioccolato. Ma che cioccolato, ti fa venire brufoli? La tua faccia è già un disastro così com'è, ci mancano pure brufoli. Comunque, il Cervino con la cioccolata ha qualcosa a che vedere. Infatti compare sulle confezioni di una delle cioccolate più famose al mondo, il Toblerone. Il tortellone? Ma che Bologna è in Val d'Aosta? Mo gli stambecchi, mo le marmotte! Questo zodicone è un caso disperato. Stiamo parlando del Toblerone, il famoso cioccolato dalla forma piramidale. E per forza, è fatto a piramide come il Cervino che compare sulla confezione. Pare che invece la forma triangolare del cioccolato e della confezione abbia un'altra origine. Mastro cioccolataio fu il signor Jean Tobler, che aveva una rinomata pasticceria a Berna. Suo figlio Theodor, che ereditò la bottega agli inizi del Novecento, brevettò la ricetta del Toblerone, che è fatto di cioccolato al latte, miele e nocciole. Il signor Tobler si recava spesso a Parigi per lavoro e amava perdersi nei locali notturni parigini, quelli con le donne mezze nude sul palco e tutte nude dopo lo spettacolo. Alle Folies Bergère, uno dei night più famosi di Parigi, ballerini e ballerine chiudevano lo spettacolo formando una piramide, probabilmente per mettere meglio in mostra le mutande. I maligni dicono proprio che quella piramide e le mutande delle signorine da cui era composta, e soprattutto quello che le mutande contenevano, sono all'origine della forma del Toblerone. Ho capito, l'origine du monde, come nel quadro di Courbet. Quella cosa lì pare faccia vendere tantissimo. A proposito di topologia, se ci fai caso sulla confezione del Toblerone, proprio tra i ghiacci della montagna c'è un orso. È l'orso simbolo di Berna, capitale federale della Svizzera e capitale mondiale del cioccolato. Perché? Sarà mica fatta di case di marzapane come quella della strega di Hansel e Gretel. Te di marzapane hai il cervello, che farebbe schifo pure alla strega. Fino al 1845 il cioccolato si consumava solo come bevanda liquida. Poi arrivò Rudolf Springli di Zurigo, che inventò il cioccolato solido. Gli inglesi sostengono che l'inventore della cioccolata solida fu Joseph Fry nel 1847. Entrambi aprirono le loro fabbriche di cioccolato nello stesso periodo. Forse siamo di fronte a un altro caso di risonanza morfica, ossia di idee e di invenzioni arrivate contemporaneamente a più persone. Tipo il torchio da stampa, oppure più recente, il telefono inventato in contemporanea da Meucci e da Bell. Sì, ma questo signor Spritz era di Zurigo, mica di Berna. di Berna era Rudolf Lind, che inventò il cioccolato fondente. E questo grazie a un errore di raffinazione. I due Rudolfi fusero le loro aziende e crearono la Springli Lind, che è ancora oggi uno dei produttori di cioccolato più famosi al mondo. Adesso capisco perché lei, signora Walker, andava spesso in Svizzera. Serotonina e endorfine per compensare i suoi sbilanciamenti ormonali. Voi donnette siete drogate di cioccolato. Oi oi oi oi oi, che cignata nei denti! Ti è chiaro adesso perché non hai la fidanzata? Perché tratti le donne come se fossero delle stupide bambole parlanti. E invece lo stupido parlante sei tu, razza di bamboccione. Sai il segreto delle mie scalate qual era? Le scarpe col tacco ci stanno bene con la gonna e il cappellino. Ma che? Il mio cibo da escursione alpina era pan di Spagna, champagne e asti spumante. I dolori mestruali io li pigliavo di tacco e di bacco. Did he die?